Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Telecamere sui taxi per rafforzare la sicurezza stradale. È la nuova iniziativa lanciata dalla Fondazione ANIA in collaborazione con l'UTI, Unione Tassisti d'Italia, che su oltre 200 vetture della cooperativa milanese La Fontana prevede l'installazione di una Roadscan, una piccola telecamera dotata di accelerometro e localizzatore GPS che diventa testimone di quanto accade sulla strada e sulla vettura e agisce nel totale rispetto della normativa sulla privacy. L'innovativo progetto si prefigge di innalzare i livelli di sicurezza di tassisti. Questa è una notizia che abbiamo raccolto in rete, che però ci permette questa mattina di farci qualche domanda. Adesso ve lo dirò nello specifico come, quando, in che maniera, con quale volume di occupazione della vostra personale vita privata, ma a Milano cominceranno a girare dei taxi che avranno a bordo una telecamera rivolta sia verso l'interno che verso l'esterno. Sarà uno strumento molto utile a determinare con sicurezza alcune cause nel caso di incidente stradale, le cause, le circostanze e via dicendo. Ma io voglio allargare la domanda prima che vi racconti con esattezza cosa sono queste road scan, queste telecamere messe a bordo dei taxi. Ci stiamo avvicinando alla nuova frontiera. Le automobili potranno essere prima o poi dotate anche di telecamere che riprendono l'interno e l'esterno dell'abitacolo. Saranno degli strumenti utilissimi per migliorare il livello di sicurezza stradale, ma quanto voi sareste disposti a rinunciare di ciò che accade all'interno della vostra automobile e quanto voi sareste disposti a rinunciare alla porzione di vostro quotidiano che ancora sfugge alle varie telecamere di sorveglianza in nome della sicurezza stradale? 800 24 0024. Lavoro tutta la notte adesso, dalle 6 del pomeriggio alle 6 del mattino, certe volte anche la domenica. È una fatica, ma almeno mi tiene sempre occupato. Guadagno 300-350 alla settimana, certe volte anche di più, quando faccio senza tassametro. (800) 24 0024. Potreste da qualche giorno avere dei taxi con una telecamera a bordo che riprende dentro e fuori. Questo vi tranquillizza, vi rassicura, cosa accade dentro i taxi che c'è poi da nascondere in fondo. Ma se questo dispositivo poi potesse essere applicato anche come magari un abbassamento della polizza assicurativa anche all'interno delle automobili, è una fetta importante della vostra tranquillità, della vostra privatezza, della vostra sicurezza in nome di una maggior dettagliata maniera di determinare le cause e gli effetti di un incidente automobilistico. 800 24 0024. Umberto Guidoni, buongiorno. Buongiorno. È segretario generale della Fondazione ANIA che promuove la sicurezza stradale. Allora, ci descriva nel dettaglio questo progetto. Abbiamo letto le agenzie di stampa, però vogliamo sapere di più. 200 taxi a Milano avranno una telecamera a bordo. Per fare che? Innanzitutto la domanda, secondo me, che lei ha posto agli ascoltatori è posta in maniera inappropriata, perché non è che a fronte di una maggiore sicurezza stradale ci sarà una perdita di privacy. Beh, oddio, se io sto dentro il taxi, so che c'è una telecamera, se permette qualcosa di mio viene preso da questa telecamera. Assolutamente no. Il tema è esattamente questo. Cioè, lo spieghi, la ripresa all'interno e all'esterno. All'interno avviene attraverso un pulsante che attiva il tassista in una condizione particolare, cioè se si trova in una condizione tale per cui presume che ci possa essere un'aggressione e quindi è una forma di protezione. Ma solo per proteggere se stesso da un'aggressione. Sì. Esattamente. Devo fidarmi del tassista al 100% però. Insomma, devo fidarmi del tassista al 100%, così eventualmente se io mi accorgo in qualche modo che lui sta riprendendo, io non l'ho autorizzato, il tassista può essere anche denunciato, quindi non credo che i tassisti si mettano per divertimento a fare. Guardi, non è che voglio metterla sotto accusa, partiamo subito col piede sbagliato. Mi pongo alcune domande. No, io mica mi sento sotto accusa, le stavo precisando che forse era bene spiegare meglio la questione in modo tale che le persone adesso non hanno il timore di entrare in taxi. Poi non è molto diversa come la dico io, ci sarà una telecamera rivolta verso l'esterno in un taxi in cui il tassista... Posso finire? Le spiego poi quali sono le riprese che vengono registrate, in modo tale che così capiamo meglio. Quindi le stavo spiegando che all'interno avviene soltanto se il tassista ritiene che ci sia un'aggressione o si stia verificando un'aggressione, Per quanto riguarda l'esterno, il dispositivo non registra assolutamente nulla se non un incidente, quando? Cioè ci sono dei dati accelerometrici che fanno presumere che c'è stato un evento. E quindi registra come diciamo, 30 secondi immediatamente precedenti e 30 secondi immediatamente successivi e l'evento chiaramente che appunto viene ravvisato come un incidente. Diciamo che è un upgrade tecnologico rispetto a quello che già le assicurazioni ci consigliano di mettere nel nostro automobile. Questo mi sembra più che logico. Però è chiaro che è materia comunque di riflessione e di discussione, questo me ne dia atto, perché qualunque cosa comunque è una qualcosa in più che viene ripreso nel nostro quotidiano. Fermiamoci solo un secondo. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Andrea Rossetti mi assiste, la mia non è un'inquisitoria, però solo per capire, professore di filosofia del diritto Università di Milano Bicocca, insegna anche informatica giuridica. La tua prima impressione rispetto a quello che stiamo dicendo? Sì, effettivamente il Garante si era già occupato del problema addirittura nel 2008, quando proprio a Milano si era già ventilata la possibilità e anzi il Comune aveva stanziato dei soldi per installare delle telecamere sui taxi, e il materiale raccolto dal Garante aveva proprio effettivamente mostrato come queste telecamere entrino in funzione solamente in caso di pericolo, cioè un accelerometro praticamente, insomma, quando il taxista frena troppo violentemente, ecco, in quel momento potenzialmente ci può essere un danno e quindi solamente in quel momento entra in funzione la telecamera tendenzialmente. Ovviamente il problema non è tanto la raccolta dei dati, perché quando noi siamo su suolo pubblico io posso fare tutte le foto che voglio e tutte le riprese che voglio. Il problema è come poi questi dati vengono messi a disposizione, ovviamente. Ecco, questi sistemi sono fatti in modo tale che i dati vengono raccolti su una carta dentro il taxi, ma anche in alcuni casi inviati direttamente al servizio dei taxi, però in forma crittografata, in maniera che solamente i responsabili del servizio taxi, dietro richiesta dell'autorità giudiziaria, possono andare a vedere quello che è successo. Quindi effettivamente il livello di privacy che viene garantita mi sembra molto buona. Bisogna ricordare anche che il Garante ha anche regolamentato l'uso di questi strumenti sui mezzi di trasporto pubblico, gli autobus in generale. Ecco, lì invece le riprese sono continue, nel senso che la ripresa e la localizzazione non avviene solamente nel momento in cui in qualche modo i sensori rivelano qualche irregolarità, ma in realtà viene ripresa sempre la situazione. Il Garante però ha detto appunto la situazione può essere ripresa sempre, però non si può registrare l'audio in questo caso. Quindi quando voi parlate su un autobus, insomma, soprattutto qui a Milano, sulla metropolitana, sui tram più nuovi, ecco, siete quasi certi di essere ripresi, però a meno che non si verifichi qualche situazione, siete anche certi che quello che voi state dicendo non verrà registrato. Peraltro, quello che accade nelle metro milanesi è comunque ripreso da una telecamera. Diciamo che molto nei vagoni più nuovi si vede proprio, insomma, soprattutto sui tram più nuovi. Ecco, si tenga conto anche che però nella maggior parte dei casi le informazioni raccolte sono destinate a essere sovrascritte nelle 24 ore successive, a meno che ovviamente non si sia verificato qualche problema e quindi i dati siano stati in qualche modo congelati, ma anche qui tendenzialmente su indicazione dell'autorità giudiziaria, della polizia, e quindi l'autorità giudiziaria. Mi sembra dottor Guidoni, mi sembra che il quadro, mi vede, non avevo nessuna intenzione di mettervi con le spalle al muro, mi sembra che se queste circostanze sono osservate, nel pieno rispetto alla legge, nessuno si deve assolutamente preoccupare. Ma come questa sperimentazione, secondo voi, quali risultati dovrebbe darvi? Cosa dovrebbe portare alla fine? Comunque non è che mi sentivo spesso con le spalle al muro, stavo soltanto cercando di spiegare esattamente quello che il professore ha spiegato molto meglio di me. Il nostro obiettivo è quello di intervenire su un settore che ha suo malgrado, vista la frequenza con cui circolano questi mezzi, visto il fatto che circolano in aree in cui c'è spesso molto traffico e quindi la probabilità di fare un incidente è molto alta, e cercare di ridurre la possibilità di incidente, anche perché questi dispositivi in qualche modo, anche diciamo così inconsciamente, inducono delle condotte di guida, chiaro, un deterrente a guidare, un deterrente a commettere delle eventuali infrazioni eventualmente. Uno se passa con rosso sa che comunque se un incidente è stato ripreso, quindi ci pensa 10 volte. Guardi, noi abbiamo avuto la registrazione di un incidente che le posso dire aveva portato in una fase iniziale ad una difficoltà difficoltà nell'accertamento della responsabilità, attraverso questa telecamera noi abbiamo accertato che la macchina che ha investito il taxi è passata con il rosso, quindi proprio la sua, il suo esempio, e quindi il tassista era assolutamente, non aveva alcuna responsabilità rispetto a quello che era accaduto. Ecco, sentiamo qualche telefonata, poi integriamo. Tony, buongiorno, che è un tassista. Tony. Buongiorno, senta, io sono 27 anni che faccio questo mestiere. E praticamente sono 27 anni che richiedo una telecamera in macchina, soprattutto per, diciamo, come protezione sia del tassista che del cliente stesso, perché il tassista potrebbe essere una persona, diciamo, normale, ma potrebbe aver bevuto, potrebbe aver preso anche delle sostanze, dei stupefacenti. Lei vorrebbe mettere una telecamera che riprende l'abitacolo nel suo insieme. Esattamente, esattamente. Per una sicurezza anche del cliente, normalmente, non solo per il tassista. È una cosa reciproca. Sì, vabbè, se la telecamera la gestisce il tassista, non so quanto il cliente possa sentire rassicurato. Scusi, comunque. Se io non ho nulla da nascondere, tutto quanto, non c'è problema né di privacy e né di accendere. No, ma io ho molto da nascondere ogni istante della mia vita. Se sto in un taxi voglio telefonare, pomiciare, levarmi le caccole dal naso, scusi il termine, ma voglio poter fare quello che mi pare. Non mi va mica tanto da essere ripreso. Sì, ma io voglio prendere anche delle persone normali in macchina, e così la stessa cosa è anche per il cliente che vorrebbe prendere un tassista normale. Vabbè, questo è chiaro. Perché non c'è riuscito? Oggi potrebbe mettersi in questo progetto, avrebbe una telecamera. E perché qui siamo sempre, magari, infatti adesso stavo ascoltando, che vi ascolto. Vabbè, sempre. È qualcosa che oggi è diventato possibile. Simone, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Pronto? Ecco, l'ascolto. Volevo solamente dire che io sono a favore di questa perdita di privacy favore di più sicurezza. Sono d'accordo anch'io. Certo. Tant'è vero che ho già rinunciato a un po' della mia privacy installando sulla mia autovettura una scatola nera offerta dalla compagnia di assicurazione con un relativo sconto sull'RCA e anche dell'incendio e furto. Loro sanno cosa sta succedendo alla macchina e soprattutto cosa in caso di sinistro viene tutto registrato. Ma infatti questo lo abbiamo detto con il dottor Guidoni, questo è un passo avanti. La scatola nera che uno accetta se metterlo o no, chiaramente certifica che tu l'incidente l'hai avuto in un certo punto, facendo un certo percorso, usando certe caratteristiche. Questo è un passo avanti che dà anche l'immagine quindi è una sicurezza ulteriore, come dicevamo prima, anche un deterrente a stare più attenti. Ma questo è un discorso che abbiamo fatto più volte, è chiaro che a qualcosa dobbiamo rinunciare rispetto al limbo dell'impunibilità in cui eravamo sempre abituati a vivere se vogliamo avere degli strumenti tecnologici per vivere più in sicurezza. Melog, cronache meridiane. .800240024, stiamo parlando delle nuove telecamere con GPS e accelerometro che saranno installate in alcuni taxi milanesi per avere il test di uno strumento più raffinato per determinare le cause di un probabile incidente automobilistico, ma anche per avere il deterrente a guidare in maniera più tranquilla, più sicura, meno imprudente, proprio perché rimane la prova fotografica. Molti ascoltatori stanno telefonando, alcuni sono d'accordo, ormai è un dato acquisito che la rinuncia di qualcosa del proprio privato è il guadagno nel campo, magari in questo campo della sicurezza. Altri poi naturalmente aprono la solita antichissima di disputa tra automobilisti e tassisti. Vorrei una telecamera che riprendesse le prepotenze, le piraterie di alcuni taxi. Ma i tassisti sono esseri umani come noi, ci saranno quelli che sono impeccabili guidatori e quelli che sono come tanti altri automobilisti cialtroni della strada. Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno, saluto tutti i radioascoltatori e voi che siete fantastici. Comunque niente, secondo me, io penso, è un mio pensiero, togliere per avere è sempre la formula perfetta. Io penso che la privacy oggi non bisogna più parlarne, perché non c'è più. Già il fatto che uno si iscrive ad un social network ha perso la privacy, per cui attaccarsi a quello che sono le telecamere sul taxi o la telecamera all'angolo del palazzo o qualsiasi altro metodo di ripresa, per me è una considerazione mia, una stupidata. Solo una cosa, dico, l'importante è essere informati esattamente. Io salgo in un taxi, voglio essere informato che quel taxi comunque mi riprenderà eventualmente, potrebbe riprendermi in alcuni momenti. Poi una volta saputo uno sceglie. Bravo, bravo, perfetto. Infatti, infatti io penso sempre una cosa, che alla fine tagliare sulle forze dell'ordine, non avere telecamere in giro, quanti casi sono stati risolti per una telecamera che ha ripreso magari una, non so, un andamento di una persona o un orecchino, qualsiasi cosa. Ma anche perché crimini, ormai i crimini vengono molte volte rivelati da telecamere di sorveglianza di supermercati, di banche. Perfetto. Io ho la mia ragazza che lavorava a Giambellino, in zona Giambellino, sì. Periferia di Milano, quando ci sono stati i militari, che c'era un parco da attraversare, che c'erano i militari, la mia ragazza, io ero felicissimo di avere i militari in giro, perché? Non perché mi dava un problema dire, ah ma si torna indietro il fascismo, i militari ogni angolo, no, io ero contento perché la mia ragazza sapevo che tornava a casa e se c'era qualche problema ad attraversare quel parco, chiamava il militare e gli chiedeva, ci sono delle persone che non mi piacciono, e lui l'accompagnava fuori dal parco. Cioè adesso obiettivamente c'è un progetto per alcune grandi parchi di ville di Roma, metteranno dei droni per sorvegliare, cioè dei piccoli elicotteri. Ma venga, infatti basta capire, non ha nulla da nascondere, anche pomiciare. Allora questo nulla, nessuno da nascondere è un'ipocrisia, tutti abbiamo qualcosa da nascondere. Sì, però dico, le mie telefonate in taxi non voglio che le sappia il mondo, perché molte volte sono telefonate di lavoro o anche intime, personali, e questo è un mio diritto, mi scusi. Non esiste la società dei trasparenti, esiste la giusta certificazione dei luoghi in cui uno sa che comunque è sorvegliato. Andrea Rossetti. Sì, bisogna stare attenti appunto, perché se no siamo tutti Santa Maria Goretti, non è così. Che sono completamente lecite, voglio dire, no? Non è che è una cosa che viene nascosta, è proprio l'idea fondamentale di privacy. Io voglio avere degli aspetti della mia vita che sono privati, anche se sono perfettamente leciti, anche se non danneggiano assolutamente gli altri. Questo è completamente a dimenticarsi, quindi questo sistema sui taxi va bene, funziona benissimo, proprio perché entra in funzione nel momento in cui c'è effettivamente un pericolo, e quindi effettivamente i dati che vengono raccolti possono essere utili per capire quello che è successo e magari per fare in modo che non succeda più anche in futuro. Però la raccolta invece indiscriminata dei dati che chiedeva un tassista prima, mi sembra un po' pericolosa. Questo è troppo, soprattutto perché, come rilevavi tu, qui sarebbe esclusivamente sotto il suo controllo il dato raccolto. Qui invece no, la cooperativa di taxi è la cooperativa di taxi che raccoglie i dati e che soprattutto tiene le chiavi crittografiche che permettono di accedere ai dati. A tutte le regole, diciamo, della conservazione dei dati sensibili. Esatto, il problema non è quasi mai la raccolta in sé per sé del dato, cioè il fatto che io catturo il dato, ma è come poi rendo il dato accessibile, e questa è la cosa fondamentale. Sentiamo un attimo Nicola. Nicola, buongiorno, c'è un'integrazione importante. Spenga la radio. Sì, spenta, ecco, perfettamente. Lei è autista di autobus. Sì, perfetto. Guardi, permetto una cosa, autista di autobus da quasi 32 anni, per 4 anni ho fatto il controllore, quindi era quello che faceva le multe, quindi quante aggressioni abbiamo avuto, e quindi posso dare un'esperienza diretta, e sono un rappresentante dell'RSU, del deposito di Trezzo, sull'Adda, che è una... Sulle telecamere, il suo punto di vista sulle telecamere. Sulle telecamere, praticamente, noi abbiamo, ormai da diversi anni, delle telecamere che registrano in modo continuativo, appena si mette la chiave e noi usciamo dalla rimessa, iniziano subito la registrazione. Abbiamo soltanto il dispositivo che abbiamo, la telecamera sul conducente, che quella la possiamo, proprio per la privacy, la possiamo azionare noi. Nel momento che c'è un'aggressione verso l'autista, schiacciamo un bottone e parte la registrazione immediatamente. Però voglio dire, noi abbiamo risolto tanti casi di aggressione che sono stati oltre che verso il conducente, ma anche verso altri utenti, diciamo, proprio perché è tutto registrato, quindi è utile. Questo abbiamo capito. Francesco, una battuta veloce, poi chiudiamo con Guidoni. Francesco, sono pericolose le telecamere negli specchietti? Sì, no, io vengo dall'automotive, vengo dalla Ford. All'ultimo salone di Francoforte, anche quello di Parigi di quest'anno, le case automobilistiche stanno implementando telecamere sugli specchietti, cioè il futuro sarà avere telecamere negli specchietti e telecamere nei retrovisori. È solo una riflessione, la tecnologia andrà comunque a mettere telecamere nelle macchine. E noi ci cauteleremo di un mondo in cui tutti avranno telecamere. Guidoni, per concludere, quale sarà, diciamo, il primo dato che vorrete raccogliere da questa sperimentazione? Guardi, sicuramente il primo dato che vorremmo raccogliere è quello di ridurre il numero dei morti, dei feriti e degli incidenti gravi, perché l'obiettivo fondamentale che ha questa iniziativa è proprio quella di fare in modo che si riducano le vittime della strada. Noi abbiamo che oggi muoiono circa 3.300-3.400 persone per incidente stradale, la metà di queste muoiono nei centri urbani. laddove appunto circolano taxi, mezzi pubblici, ciclomotori e via dicendo. Quindi noi riteniamo che se questo strumento ci consente di far sì che si possano ridurre gli incidenti, incidiamo sulla metà della mortalità sulle nostre strade, e quindi questo credo che sia il dato più sensibile da considerare l'obiettivo che noi abbiamo. Mi sembra giusto, Guidoni, anche perché ha sentito il nostro ascoltatore che ha visto avanti in un salone d'automobile. Presto le macchine, le automobili di nuova generazione avranno telecamere ovunque, oltre a quelle per la retromarcia, l'avranno negli specchietti retrovisori, nello specchietto e via dicendo. Quindi le macchine comunque saranno dei dispositivi di ripresa del mondo, quindi è inutile che ci preoccupiamo. Grazie a Alessandro Chiappini, a Fabrizio Intonti, alla prossima.